entusiasmo y venceremos. Unidos, Rebelde, Brigata, Briganti, questo era l'inno della Brigata Dax, Entusiasmo e Venceremos con Scassapanca, appunto Scassapanca, sono un gruppo scapunk nato a Lainate in provincia di Milano alla fine del 2008, il brano Entusiasmo e Venceremos è tratto dall'album Adelante del 2018 e come detto abbiamo dedicato questa canzone a Rodrigo che ci ha lasciato questa settimana. E rimanendo sempre in tema Dax, passiamo dalla Brigata Dax appunto a parlare invece della Quattro Giorni e di come si è svolta la Quattro Giorni in ricordo di Davide Cesare settimana scorsa dal 16 al 19 e ne parleremo con un compagno in linea. Ciao, ci senti? Ciao, sì, vi sento bene, grazie. Ciao, ciao, ti ringraziamo e benvenuto a Radio Tagadà, ti ringraziamo tantissimo perché comunque in queste settimane sei stata una voce abbastanza costante all'interno del nostro programma e niente, quindi volevamo affidarci un po' a te per parlare un po' della Quattro Giorni che c'è stata dal 16 al 19 marzo e insomma un po' se vuoi ci racconti e se vuoi darci anche dei feedback rispetto a come sono andate le giornate. Possiamo iniziare magari appunto partendo dal 16, il giorno del ventennale, l'anniversario del ventennale insomma dell'uccisione di Davide da parte dei fascisti in via Brioschi fuori al pub Tipota. 16 marzo 2023 è stata la degna inaugurazione di questa Quattro Giorni, nel senso che abbiamo visto via Brioschi piena come non mai, stracolma di gente, compagni e compagne di Milano e non solo. L'inaugurazione è avvenuta proprio nei pressi del Tipota con la proiezione in anteprima assoluta di Brucia ancora dentro, questo documentario autoprodotto dall'associazione Dax e dalla Fo Boccaccio di Monza che ha dato là appunto alla Quattro Giorni in un clima sicuramente di grande attesa sia per la proiezione in sé ma sia in generale per tutto quello che era il programma che ci attendeva. è stata una proiezione molto partecipata e molto apprezzata. Questo progetto era molto atteso, e poi anche nel concreto sappiamo che le 500 copie che erano state stampate a questo primo giro sono andate esaurite entro una settimana, e questo è un ottimo riscontro, insomma, anche perché era un progetto a sostegno della campagna 130.000, e quindi questa settimana arriveranno invece le copie di ristampa per il giro di presentazioni che si preannuncia lungo e intenso sia in Italia che in Europa. Dopo la presentazione del film ci siamo mossi tutti e tutte insieme per le strade ticinese, e anche questo corteo è stato sicuramente più partecipato rispetto agli scorsi anni. Sicuramente più di un migliaio di persone si sono mosse da via Brioschi per approdare in via Gola, e anche quello è stato un momento molto emozionante, molto sentito, perché proprio sotto casa di Dax è partito il consueto spettacolo pirotecnico sui navigli milanesi, e anche questo è stato quindi un frangente in cui si è sciolta un po' la tensione della vigilia, potremmo così dire, per questi 4 giorni ricchi di appuntamenti. E da lì è stato, dal mio punto di vista, tutto un crescendo, perché lasciato il quartiere ticinese, il venerdì 17 ci si è riconvocati per occupare uno stabile in zona nord, nei pressi di via Palmanova, area 161 ribattezzata da compagni e compagne di Milano. Questa è stata la casa per tutta una serie di iniziative nell'ambito appunto della manifestazione che abbiamo collettivamente nominato Nella notte ci guidano le stelle. In primis nell'Assemblea internazionale, l'Assemblea internazionale che quindi si è tenuta in questi spazi che dal mattino al primo pomeriggio sono stati attraversati da decine soprattutto di giovani che si sono attivati per ripristinarlo e renderlo il più possibile accogliente. L'Assemblea internazionale si è sviluppata innanzitutto con 2 tavoli contemporanei su tematiche repressione, antifascismo e lotte sociali e antifascismo, ha visto la partecipazione di delegazioni da Berlino, dalla Spagna, dalla Francia e dalla Grecia, oltre che ovviamente un nutrito gruppo di realtà, oltre che milanesi, anche da tutto il resto d'Italia. Partecipazione sopra ogni aspettativa, probabilmente circa 150 partecipanti a ciascuno dei 2 tavoli, che poi sono confluiti all'interno della plenaria serale, che quindi ha contato più di 300 persone. E questo è sicuramente un risultato eccezionale, un po' perché supera le aspettative che ci eravamo dati inizialmente, e un po' perché ci sembra che appunto siano numeri molto significativi in assoluto. E questa plenaria è servita un po' a fare un po' il punto sulle ipotesi di costruzione di una internazionale antifascista che sappia aggiornarsi con frequenza, rimanere in contatto, scambiare prassi, informazioni rispetto ai nostri agire politici nei territori e mettere un po' a confronto a livello transnazionale. Il giorno dopo, 18 marzo, corteo nazionale antifascista con concentramento in Piazzale Loreto, e anche questo è stato un momento molto intenso, molto partecipato, un corteo che ha attraversato appunto in maniera inedita la zona nord, una zona che è colpita purtroppo da un grave fenomeno di speculazione, gentrification, e quindi portare insomma questo messaggio di antifascismo, anticapitalismo in via Padova e in tutto questo quartiere che si sviluppa a nord di Loreto è stato un momento significativo. Quante persone? Tendenzialmente noi abbiamo stimato 7-8 mila presenze, suddivise in spezzoni tematici, dalla testa in cui hanno presenziato amici, parenti, le madri di Dax in primis, ma anche di Renato Biagetti, per poi avere una componente studentesca. E via di seguito lotte sociali con un forte imprinting sul tema della lotta per il diritto all'abitare, sport popolare con un focus specifico insomma su quelle che sono le vertenze contro il grande evento Olimpiadi 2026 e via andare con lo spezzone transfemminista, uno spezzone internazionalista. E fino ad arrivare appunto a uno spezzone contro la repressione, che ovviamente ha portato in piazza in maniera esplicita tutte quelle che sono le rivendicazioni contro il 41 bis, la detenzione di Alfredo, e poi anche con uno spezzone in mezzo proprio su antifascismo sociale, con appunto tanti colori che si sono mischiati in questo corteo che ha toccato via Mancinelli, rendendo quindi anche omaggio alla ricorrenza per Fausto e Iaio, fino ad arrivare in Piazza Tel Aviv a confluire nel concerto che si è tenuto proprio dentro l'area 161 Sì, e ti anche lì. volevo solo aggiungere che rispetto al corteo il concentramento era alle 2:30 da Loreto, ma tutti gli spezzoni tematici che hai citato hanno fatto praticamente un pre-concentramento un'oretta prima e si sono mossi da varie parti della città molto vicine, diciamo, a Piazza di Loreto, quindi è stato anche bello vedere come gli studenti arrivassero tutti insieme da Piola, piuttosto che lo Sport Popolare, dai giardini via Petrella, piuttosto che lo spezzone, diciamo, per il diritto all'abitare, da Via dei Transiti. È stato molto interessante anche quel momento di pre-concentramento e poi vedere piano piano che la piazza si riempisse sempre di più, sempre di più, sempre di più, che alla fine non ci stavamo e quindi già il corteo, insomma, era a metà di via Andrea Costa. Se ancora doveva partire. No, volevo aggiungere questo perché secondo me è stato molto bello anche vedere quell'affluenza che cresceva. Scusa l'interruzione. No, no, ti do assolutamente ragione. Penso che siano stati 4 giorni ricchi di immagini che resteranno un po' impresse nella memoria di tutti e di tutte. E appunto anche la serata, giustamente tu dicevi in piazza, a un certo punto non ci stavamo più. Ecco, anche la serata, a un certo punto all'interno dello spazio non ci si stava più, nel senso che l'affluenza al concerto che è stato organizzato proprio a sostegno della campagna 130.000 ha registrato migliaia di presenze, quindi nonostante lo spazio fosse molto molto ampio, devo dire che facevamo fatica insomma a gestire il flusso di persone e questo ovviamente va accolto come un dato più che positivo. Sulla giornata del 19, che quindi a poche ore di distanza dalla conclusione del concerto si è riconvocata al Parco Lambro. Io qui vado un po' per racconti e so che forse magari qui tu puoi raccontarci Sì, se vuoi qui meglio. t'aiuto io, giusto perché appunto eravamo lì con lo Sport Popolare e con il rugby. Nonostante appunto, come hai detto tu, la serata fosse finita abbastanza tardi, il giorno dopo al Parco Lambro comunque abbiamo avuto una sostanziosa presenza oltre ogni aspettativa anche per noi che avevamo organizzato, quindi ci siamo anche trovati un po' in difficoltà a provare, insomma, a far partire tutto in orario. Abbiamo messo dalle 10, poi insomma 11 e mezza, mezzogiorno siamo partiti con tutte le attività e c'erano circa 500 persone tra le varie discipline che hanno attraversato quel momento là ed era veramente veramente bello vedere quella porzione, insomma, di Parco Lambro riempita insomma di compagni, compagne, compagno che facevano attività sportiva e anche oltre ogni aspettativa, siamo riusciti a fare l'assemblea con tutta una serie di difficoltà un po' più tardi. Avevamo messo a mezzogiorno, ecco, non sapevamo bene come si sarebbe svolta la giornata, anche perché il giorno prima era abbastanza imprevedibile, però verso le 16 ci siamo radunati, insomma, sul campo da basket dove c'era montato il ring della box, che come attività aveva già smontato tutto, e comunque in una cinquantina di persone, forse a un certo punto anche di più, comunque molte realtà, insomma, dello sport popolare si sono incrociate. È stato più un momento, ecco, insomma, di conoscenza. C'è stato un giro delle varie realtà che sono venute, ci sono stati vari momenti che verranno riproposti e probabilmente verranno ripresi. Si è parlato appunto un po' della dinamica che porterà il cambiamento della città su Milano Cortina, ma comunque è stato molto bello perché c'è stato veramente uno scambio, un primo momento di scambio di conoscenza anche tra, che ne so, persone che giocano a rugby piuttosto che giocano a calcio, piuttosto che fanno tessuti, con persone delle palestre, fanno box e magari non si conoscevano prima, però le basi anche di volontà, oltre che di organizzare sport popolare autogestito, antisessista, anticapitalista dal basso, c'è anche la volontà di auto-organizzare magari un percorso a riguardo. Quindi molto molto bella anche quella giornata. Scusa se mi sono inserito, però giustamente chi era al concerto poi il sabato ha fatto un po' ed organizzava e gestiva tutto, ha fatto un po' di difficoltà ad esserci la domenica, ecco. Esattamente. Comunque, poi per tornare alle tue domande iniziali, sulle valutazioni, adesso credo che ciascuno all'interno delle proprie assemblee, delle proprie situazioni, ha avuto il tempo di metabolizzare e ragionare su cosa è funzionato soprattutto in questi quattro giorni, qual è stata l'alchimia che poi ha permesso di riuscire a dare forma in maniera efficace a tutti quelli che erano i desideri, i presupposti di partenza, che sappiamo bene sulla carta spesso sono una cosa, poi nella pratica non sempre vanno come uno vorrebbe. Qua invece, se c'è stato un difetto di previsione, è un difetto che poi si è trasformato, come dire, in un eccesso di partecipazione. Questa è una roba che sicuramente lascia tutti orgogliosi e orgogliose, perché i feedback arrivano anche e soprattutto dalle altre città, dagli altri paesi, nel senso che i compagni internazionali che sono sopraggiunti hanno avuto davanti agli occhi una capacità di auto-organizzazione non indifferente, e quindi il riscontro che abbiamo avuto è stato anche quello di complimenti, di motivi di ispirazione per iniziative che si possono poi portare a Parigi o a Madrid in occasione degli anniversari di Clemente o di Carlos. E noi su Milano ci riaggiorniamo sicuramente a breve in un'assemblea con tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione di questa quattro giorni, e li faremo il punto collettivamente su cosa è stato questo ventennale, su cosa ci lascia in eredità, e da lì si vedrà, insomma, adesso senza voler sovraccaricare di significati questo momento conclusivo. Comunque penso sia importante rivedersi e mettere il punto anche un po' a freddo su quello che è stato un percorso comunque lungo, 7-8 mesi, perché noi abbiamo cominciato a vederci a luglio per costruire queste giornate, e fare un bilancio complessivo aiuterà a crescere tutti quanti, ecco. Sì, noi ti ringraziamo. Io solo prima di lasciarti, giusto, volevo condividere con te, come dicevi tu, il venerdì c'è stata una presenza massiccia di giovanissimi e giovanissime che hanno dato una mano a sistemare il posto. Questa presenza è stata costante dal giovedì fino alla domenica. Incredibilmente gli studenti vedi sono riusciti ad arrivare a giocare a basket nonostante abbiano fatto giustamente bisbocce il sabato sera. È stato veramente molto molto bello, e anche l'apertura, diciamo, degli spezzoni tematici da parte della rete degli studenti di Tsunami e di tutte quelle realtà, insomma, studentesche milanesi, dopo logicamente lo striscione storico con le mamme, è stato veramente veramente figo, ed era quello un po' l'intenzione, no, della quattro giorni, di cercare di fare un passaggio di testimone della ricordo e della memoria collettiva, e secondo me in questi momenti di piazza c'è stato. Ora appunto si farà un'assemblea di bilancio, vediamo come andrà avanti, ma sicuramente, almeno per me, poi penso anche tu possa condividere la stessa cosa, l'obiettivo è stato abbastanza raggiunto dal punto di vista di coinvolgimento, insomma, dei più giovani. Sì, sì, sottoscrivo in pieno le tue affermazioni. Abbiamo visto all'opera un sacco di compagni e compagne nell'arco di tutta la 4 giorni, sia in termini di attività pratiche, sia in termini di pensiero, e questa cosa fa ben sperare. Sono momenti frangenti in cui c'è bisogno anche e soprattutto di tornare a fare delle battaglie in ambito studentesco, quindi speriamo che tutta questa esperienza sia un'occasione appunto di rilancio anche e soprattutto in quell'ambito. Perfetto, noi ti ringraziamo, mi scuso con te se ci siamo dilungati un po', però secondo me ci stava, insomma, è stato veramente un bel resoconto. Dai, a presto e ci sentiamo presto magari per parlare ancora di Brucia Ancora Dentro, di altri documentari che arriveranno, ne parleremo poi in futuro. Grazie, ciao. Grazie mille a voi, ciao, ciao, ciao, grazie mille, ciao.